Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e oggi è il 28 di maggio, la seconda edizione. Vi parla Daniele Biacchessi, vi ricordo tutti i giorni con Italia in controluce i reportage sul nostro paese, sulla società italiana. I suicidi per motivi economici, soprattutto nel nord-est, sono effettivamente aumentati negli ultimi tempi o più semplicemente se ne parla di più? Ci racconta tutto Barbara D'Amico. Non è il conto in rosso, non è, è quando rimani completamente solo e nessuno, dico nessuno, ti dà una mano. Nella nostra zona, nel padovano, trevigiano, nell'ultimo periodo ne sono morti tre, non so, chiedere al nostro governo quanti se ne devono ammazzare ancora. Il fenomeno degli imprenditori suicidi è ormai definito allarme sociale, ma com'è possibile stabilire con certezza una correlazione tra le morti e la crisi economica? Secondo dati Eures, l'organismo statistico europeo, in Italia nel 2009 a togliersi la vita per il tracollo economico sono state 357 persone e nel 2010 362. Due terzi dei suicidi è avvenuto nel nord-est, una concentrazione troppo alta secondo Fabio Piacenti, che ha curato il rapporto Eures per l'Italia. Questo numero è un numero effettivamente record, perché quando abbiamo esplorato i dati degli anni precedenti, i suicidi, diciamo, per motivi economici sono stati negli ultimi 10 anni sempre, diciamo, intorno a cifre comprese fra i 70, gli 80, i 100, nel 2008 sono arrivati a 150, nel 2009 sono arrivati a 200. Questa sono raddoppiate negli ultimi 2 anni. In realtà noi abbiamo avuto una crescita di quasi il 40%, il 37% rispetto agli anni precedenti. Quindi, insomma, questo effettivamente ci dava il senso di un incremento significativo del fenomeno. In Italia, per l'Istat, i suicidi sarebbero addirittura calati rispetto agli anni 80, eppure dal 2012 32 capi azienda si sono uccisi. Tra loro anche Giovanni Schiavon, imprenditore edile che si è sparato un colpo in testa il 12 dicembre 2011 in un prefabbricato color crema a Peraga di Vigonza, in provincia di Padova. Motivi economici dietro il suicidio. Mario Bortoletto, amico di Schiavon e anche gli imprenditori edili, ha un'altra teoria sulla morte di Giovanni. Il Veneto è diverso, ma sa perché? Perché per un veneto il lavoro è fondamentale e l'imprenditore veneto, il piccolo imprenditore, mette, sbagliando, il lavoro prima della famiglia. Ecco perché succede questo, perché il lavoro è importantissimo. Giovanni avanzava soldi, cioè di crediti che non riusciva ad incassare, prima si è staccato e in un momento di sconforto ha fatto questo gesto. In Veneto l'identificazione tra famiglia e impresa è molto forte, perché il legame tra affari e vita privata è l'ingrediente base del modello Nord-Est, lo stesso che ha fatto la fortuna di imprenditori come Aia e Benetton e che ora però porta al suicidio molti capi azienda. Guido Lazzarini, professore di sociologia all'Università di Torino e per 10 anni docente a Verona. Carriera della persona e carriera dell'azienda sono un tutt'uno. Le aziende venete sono tutte piccole aziende, in gran parte nate dopo gli anni 60, dopo il boom economico. Sono aziende nate in casa. Il metodo che tu conosci, quello di Benetton, è il metodo veneto. Ecco, Benetton è diventata grande proprio con la tessitura a casa delle donne. E questo modello è tuttora vero, tuttora, nel senso che l'organizzazione di tipo distrettuale, dove ognuno fa un pezzo, ma ognuno fa un pezzo con i suoi attrezzi. L'individualismo è fortissimo. La mentalità contadina è una mentalità individualista. Allora, da un lato tu vedi questa organizzazione di tipo distrettuale, dall'altro tu dici, mamma mia, se c'è questa organizzazione di tipo distrettuale fa pensare a una solidarietà, fa pensare a una buona organizzazione dove c'è uno scambio, non è vero? Una commistione tra affari e privato che sarebbe diventata letale, perché legata a un'etica contadina che nel Nord-Est è ben radicata. Il Veneto, in particolare, ha conosciuto l'industrializzazione tardi rispetto a realtà come quella piemontese o lombarda. È un'economia che si regge sull'etica contadina più che su quella speculativo-finanziaria. Parola di imprenditore come Fabrizio Frosio, fondatore del PDA, il Partito delle Aziende, nato a Verona per difendere i diritti delle piccole imprese strozzate dalla crisi. Il Partito delle Aziende nasce per necessità più che per ideologia e nasce proprio dall'esigenza del piccolo imprenditore di avere una rappresentanza propria che non sia di passaggio con l'associazione di categorie, ma che sia diretta. L'imprenditore veneto ha dei limiti, ha una grande voglia, una grande passione, ha una grande professionalità nel proprio lavoro, ma ha dei limiti. Quando i limiti vengono superati e il contesto diventa inagibile e non è più a misura d'uomo, anche il piccolo imprenditore veneto capisce che la sua strada è interrotta. Piccole imprese che non trovano più lo sbocco, e quando parlavamo prima di suicidi, che noi siamo andati a analizzare e attestare, è il risultato di una mancata speranza. L'imprenditore non ha più, non vede più la luce in fondo al cammino. Ecco perché le cose che ci vengono a chiedere sono essenzialmente tre: l'accesso al credito, una situazione più equa nella tassazione, nella pressione fiscale, e terzo, il fermo assoluto e repentino di quello che è l'aggressività da parte di Agenzie delle Entrate, Equitalia e tutti gli enti che sono oppressivi, renderli un po' più umani, un po' più in misura d'uomo. Enrico Riva, imprenditore lombardo, padre della radiofonia italiana e ora dirigente del PDA, va anche oltre. La crisi c'è in tutta Italia, diciamo che nel Veneto si sente di più per mentalità. In Lombardia ci sono gli imprenditori conciati peggio di questi, che in realtà non si sono tolti la vita, poi lì è questione anche di carattere, no? La maggior parte degli imprenditori veneti sono delle bravissime persone, oneste, eccetera, eccetera, non sono capaci di fare degli escamotage, diciamo, dal punto di vista finanziario, eccetera, eccetera. Se loro vanno solamente per la loro strada, che è quella retta, pertanto si sono trovati a avere una difficoltà di liquidità, e la prima cosa che ho visto, considerato che questa difficoltà persisteva, hanno deciso qualcuno, per salvare il proprio onore, di togliersi la vita, ma secondo me giustamente per la mentalità. Poca furbizia, poca solidarietà e un attaccamento forte all'etica del lavoro. Davvero sono questi gli ingredienti dei suicidi? Il sociologo Lazzarini risponde così. Se noi vogliamo capire questo fenomeno degli imprenditori che si suicidano, dobbiamo tenere presente due variabili: uno l'età e l'altra, ecco, la carriera personale. Cioè la carriera personale diventa la carriera dell'azienda, diventa il cammino stesso dell'azienda. Pertanto, se l'azienda scricchiola, se l'azienda si deteriora nel suo stato economico, è la persona che entra in uno stato di crisi e di deterioramento, di destrutturazione. Era Italia in controluce, ringrazio Barbara D'Amico per questo reportage nel Nord-Est, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24, vi racconteremo attraverso la voce di Sabrina Pisu la storia di Lea Garofalo, perché proprio in questi giorni si parla di lotta alla mafia, ogni tanto vogliamo ricordare le vittime di mafia, quelle che non ci sono più, e soprattutto le persone che hanno avuto il coraggio di resistere a testa alta.